molto facilmente. Break. Canale 5 Italia Unghie. Se ascoltate la radio vera, lo chiamate Grande. Cambia, cambia. Papà, vi ascolto tutti forti e chiari. Se non era qualcuno nuovo. Avanti la vita. Chi è? Non sento nessuno. Manco io. Ma poco fa con chi stai parlando? Ciao, sono qui io. quando sono bezzeggiati, che si valgono, se la via l'opportunità già fa di un culo. No, a me non mi stanno disturbando oggi. No, stavo girando io il canale, stavo girando. Per fare un coso. Non è che li sento, no. Stavo girando un attimino il canale per vedere un po'. Se l'hai capito, dai. No, io devo arrivare. E io ci stavo parlando con Walter, le cose, visto che c'era quella portante che copriva a me, a Walter, eccetera, eccetera. Io non la sentivo. No, nemmeno io l'ho sentita, quando parlavamo ce la mettevo. Non sentivo nessuno io qua, io sentivo a voi e basta. Robert ha detto che, Roberto Prada ha detto che era forte, che copriva addirittura a me, a Walter, insomma un po' fatto. Io vi ho sentito parlare, però da questa parte non mi faceva niente. Magari da vicino a Roberto Quadrato. Ecco, vabbè, ma qua, ma comunque, ma questo schietto faceva nulla. Comunque, c'è sempre qualcuno che vuole rompere, sempre. Qua io non sentivo niente, sentivo voi e basta, sicuramente era quella zona. Che ci sono voci chimiche da al quadrato a girare di Baravasse, grazie a chissà zona. Ma se non arrivi a lei no, che io lo sentivo. Però che non arrivi a nessuno, quindi a tutti. E capo ci si ha detto se con qualche portante sotto casa sua. Tre vatti logico che se è poca cosa, è logico che ci contrastiamo, non facciamo né uno né l'altro. Da una porta CD si fanno passare i fili audio-video, audio o audio solo, e si mette il CD vergine nel vano di questo apparecchio qua. E te lo masterizzi. No, io sto parlando del 2+1, già si può attaccare anche a computer. Ho detto di non pensare se può la musica al computer. Già lo so, ma mia moglie non le vuole tutte queste case in giro, ha detto che ne fanno più di soldi che altri. Ne abbiamo due amplificati noi lo stesso, col volume e tutto quanto. E si sente abbastanza bene. Quelli vanno bene anche per il baracchino, per tutto. Baracchino ti fischia? Da. Baracchino ti fischia? Va bene. Perché è amplificata? E noi ritroviamo l'amplificazione. Cavale amplificatore, grazie. Ma scherzate. Li avevo anche riverdiciati a quelli lì, li avevo tutte pulite e belle riverdiciate, non c'è un vicino, specialmente le su, non le su, ma le riverdiciate pure, che era un po' graffiatello. E l'ho messo a posto. Ecco, va. Buttato sempre le buste, ma la zia. Ma sono gli impianti, ti occupano poco spazio riesci a avere, diciamo, una musica discreta, poi ci sono quelli che stanno anche buoni. Guarda, se ascolti, l'effetto di un film con quelle casse lì è bellissimo, io ce l'ho ancora, ce l'ho più grande di quella addirittura, ce l'ho la 150 watt, figurati. Ma io c'ho un Sony, c'ho un televisore di Sony che è esteso, te devi sentire come si sente. Quando c'è musica, quando ci sono questi effetti sonori, cose del genere, si sente un bel bene lo stesso. Quello Sony, quello lì ce l'aveva regalato mia comare, che praticamente non voleva portare via perché dice che stava comprando quello ultrapiatto, eccetera, eccetera. E ho detto, ma buono, dice sì, allora ti dà fastidio se te lo chiedo. Oh, già, per carità, se lo vuoi te lo do, c'è un problema. Tutto finisce lì, no. Poi c'è uno per marito, sono a campagna, lo vedo, c'è il mio papà nel televisore, ma ti immagini? E funziona bene, papà, ti sto dicendo, funziona benissimo, c'ha delle immagini favolose. Grande. Quello che c'è in sala? Non me lo ricordo. Quello è grande, là. Non è grandissimo, ma non so quanti pollici sia, 28 pollici, 30 pollici, non lo so quanto sia. Comunque non è né piccolo né grande. 28 pollici è una misura che va bene, dai. Anche tu non lo so come cosa vale, se tu non te lo dico mano. Non è sbattuto da qualche parte. Avanti, chi è? Avanti. Già, buonasera il Vulcano qua. Buonasera a tutti. Vedi Dino. Positivo, allora qua stavo facendo un paio di microfoni che stavo. Questo mi sembra che dava fastidio, faceva tricchi tricchi, l'ho messo un po' di coso. Faceva troppo rumore, capito? E allora gli ho messo un po' di CRC, come che si chiama, anzi di quello per i contatti elettrici. Ehi, ero spray per contatta. Ho messo una spugna più grossa, sempre l'8001, di quelle morbide grosse che c'avevo nel cassetto, gli ho messa, non so se va meglio o peggio. A me mi pare uguale, e te per fare... Faccio sentire sull'altro CD che c'è la sottile. Vai. Questo è sempre un altro CD e questo c'è la sottile, la come si chiama, come c'era prima, è in origine questo. Adesso ci vediamo. Vanno bene tutti e due, vanno bene tutti e due. Questa che ho provato adesso la sento più chiara, con meno bassi però. siamo, sta qua. Infatti basta alcuni accorgimenti, lasciare solo la parte esterna e diventa un buon bocco. Il cavo si può cambiare, il coso lo stesso. Noi mettiamo il circuito di CTE, lei. Ce ne vuole una ceramica buona. E io sto parlando, l'unica misura, anche con un attacco è particolare, capite? Non può mettere altro niente. Il vulcano. Sto chiudendo con microfono. Vagava. Riprendi a me. Di giro non c'è. Apposta, fatto mettere apposta, capito? Ha sente proprio chiaro chiaro anche. Positivo. E come mai oggi non sei uscito? Oggi, capito? Oggi essendo festa non sono uscito in camion, ma neanche in vettura, perché sono a piedi oggi. Che assista, la pelota, come mai la macchina? C'erano i miei figli, dai, l'hanno presa la loro e c'erano loro, capito? E ti hanno lasciato la pelota. Quello perché non ne compri una per loro, qui. Vicina, e allora abbiamo preso la mia, capito? Gava, ebbe. Ma mia figlia già ce l'ha. A lui molte volte me lo dice a prenderla la sua mano, mi piace, è una cazzuetta, ce la c'è due. Sì, sì, lo voglio dire. E va bene, ma te sei mandata la mia, La mia non è che se la sei mandata, ma... Per me già va bene, va più che bene. Io già ce l'ho appunto, già andate. Troppo beata. Oh, come grandezza, come faccio fino a trattuire, ma posso da casa a campagna, che butta da che giro, così. Positivo. Ma c'è un bel segnale oggi, come mai? C'è un bel segnale di 9 oggi. Sì, c'è la bugiata che coraggio è andata in radiale che è rimasto. Questa è l'altra di... E io, per il ruggito con la macchina, la sua gamba, mangia, fino alla coraggio che ha in me. Cazzo di... Uno quindi è uno se si sposa. È positivo, campagna, io che mi sono tuccioli, le tuccioli a Simone sopra il radiale. Che tu sei a tirare, che città? Io li dintavo quando travagliavo, entrava nella verniciatura, nel capannone, cazzo quando entrava laggiù, serravo gli anni, cominciava con le pezze di legna, cuscinetti, tutto invece che mi veniva in mano. Mi fa dire che la cazzo con le arrivitrate, no? E poi quando era la bocca a pesce, caravano in terra, no? Andate a ripigliare un cuscino, si cavare di fuggire da bere, e con culo a mise. E allora ripigliavo, gli tiravo il conto, e poi al frigo la sera mi ripuglia le vacanze, le schivavo, le schivavo, e domani mi fa dire un sughetto. Positivo, e non finisce a travagliare. E verniciatura, e verniciavo anche, fa legna mia, però c'era anche la verniciatura, e io dicevo che fa tutto, marco d'accia, maniare, frappicamù, tutto, e verniciavo anche, era un capannone separato, lì applattavo una terra lunga. La terra lunga è di rimane, terra lunga è di evitare agli alunni. Era lunga, la fattoria presente ce l'hai, fai tutto rettilineo, prima arrivare all'incrocio del terzo pistine. Sulla destra vedi su viottolo che vedo tutti i gaccioletti della Mondetta in fila. Entri quel viottolo, fai tutto quel rettilineo, la prima curva che trovi, la lasci e entri sulla destra, c'è il maneggio di cavalli. Non stavo dicendo che c'è il maneggio del cavalli, ho capito. Dove c'è il maneggio dei cavalli e dove c'era quello che vendeva le anguille una volta. Anguilla vendia, vedevo che vendia l'anguilla in Kiev. Ma quello delle anguille dopo la fattoria è il primo viottolo. È il primo viottolo sulla destra. Dove ti sto dicendo io è l'ultimo viottolo sulla destra di vigilia. Capito? Lì in fondo dove c'è il maneggio del signor Mario, dei cavalli, proprio ha attaccato confina con il maneggio. lì ci sono due tapparoni e adesso la verniciatura, dove c'è la verniciatura, al deposito della roba pronta, no? Oh, quello l'avevo buttato giù il tramezzo e l'ha appuntato a un carrozziere, quello che c'era lì punti sulla strada principale, Luigi, che aggiustava il pullman, riverniciava, arrivati a lui. Positivo, positivo, che è meglio che sono andata a capovera a travagliare. Chi è Luigi? Figli. Ah, c'è sempre la carrozzeria, penso che ci sia ancora. È arrivato Luigi e poi c'era quell'altro ragazzo, Roberto, quel ragazzo che è morto vicino allo spaccio delle carni, che si è sbattuto al palo della luce con la moto, quel carrozziere lì. Positivo, positivo, fanno culo, ma via dicendo, lì a Campomera, hai compreso, attaccato alla Zizia, sono i migliori, hai compreso di dentro. Io pensavo non abbia travagliato il vapo. No, che travagliando i libri, e c'era uno dei fratelli con cui poi se ne è andato, a chi scambia dei problemi con questo Roberto, con questo che è morto. E se ne era andato e si aveva attaccato il travaglio. Aspetta, dove? Alla TNT mi pare, autista con il furgone. Di tiro, vuol dire? Di lì, allora tanto non trava lì. Castrano l'aprì, uno che gli pigliavo, ma da qui pulia in casa, no? Ma viene tutta la banca piena di gran turco, di dritto. Addirittura? Perché come mettevano le palle di fieno a mangiare i cavalli, i nolli, loro li facciavano in tutte le cavate mangiare, e paravano e mangiavano dai libri, no? Tutti i chicchi che c'erano in mezzo, si ribiccolizzavano e infatti era pieno di tortore, colombi non se ne va vita, tutti vecchi e vedi che la soffrire, pure si torto. Tutti i gatti, tutte le volte che ho preso sia a Colombo, se tortere, quando li massavano, li pugliai, no, in casa, avevano solo trigga e fava in pasta, fa freddi. Che non evocava neanche se campagne, è stato tutto utile, tutto cose, che non evocava neanche mangiare. Certo se ne bucavano, e gli dico tutti i città che si pianuti, il periodo della fame era tutta fame, il periodo dei carciocchi tutto carciocchi come adesso, e poi il periodo delle patate era tutto patate. Tu li venivi, ma quante ce n'erano crude, più la massa e più mi veniva, e tolto che l'umatezza. Già lo so, già. Però ve ne so sempre quattro, non lo so, ve ne so sempre state quattro, non che dice tutto lì. Ci avranno sicuramente nido in qualche albero lì vicino. E anche qui vicino a casa c'è un albero di pino un bel male, vedo essere un nido, ogni tanto li vedi, no, che accoppiati, vedo altri alberi e li vedo da un albero all'altro. Io devo essere qualche nido in quest'albero di pino grande che c'è. E li vedo, insomma, di grassottelli pure. Sono i nuovi, non fanno a figliare. Pure no, che ne so che io vedo la gente vicina, non fatelo, ma pesce. Italia ripucchia, chi apre a tutti e due, so, una, due, quattro porte grandi erano, scorribili, che hanno provato a farlo. E una apriano, li va e entravano, no, che ci buniano in accio. Quando era venuto pieno, si arrava e cominciava la caccia. Cazzo, gli era sbagliato un po'. Gli devi che pure un tirarasco, ecco, un tirarasco, ma quella lì. Anche col tirarasco, anche con la carabina, se passiamo la scorta, cazzo, io imparo la formato una sanguina, un signorino, cazzo se ne pigliavo, la bevina un pezzino, gli dia per la stazione, senti, e le do, cazzo se vuole che ne fa, gli vede cosa fa, non le mangi, dove che me le mangi io? Tutto pieno di piccione, 30 euro, che ci sono la peradina. Allora, andiamo a chiamerò, mi tira da zia, mi poi chiamerò, mi do solo poi su Baravigna, mi metto un barattolo, poi a mio uomo, la stava mazzisso. E poi da zia mi poi un paio d'ore, allora quando veniva in terra, di chi si così, si picciava, tutti in terra, niente, tutti gli chiedi in terra, era. Già lo credo, ma ci siamo passato, Mi sono abbassato? È stato più basso. Mi sono che portato sempre in occhio qui. Ah! Oh, sto fermo ciò qui, io sono proprio in casa, io non so più buono, no. Sono sempre buono della cattria io. Adesso mi dirò. Prova! Aspetta, vedi, non lo so, io sono sempre. Non me lo che muovito. Sentivo più forte a momenti più basso, quello mi darà ancora l'antenna. Prova a vedere, riesci a vedere il segnale tuo, se è sempre uguale. E vedi, adesso sei arrivato più forte. Beh, ti ho detto anche il tuo segnale adesso. Ah? Ho aumentato il segnale tuo e è tornato a lui. Mi ha dato usato, non mi ha dato la pace, no? Positivo. E comunque già ne pigliava un'altra volta, vedo un'inquilina che un libero ufficio avevo realizzato due appartamenti, no? E la fissata, vera un'inquilina che va via gli iadini, una lì si cucina gli iadini, la retrobola e senza ne fare niente. E la parola riuscita a pigliarli, venite la mettendo una decina a caffi, no? Che fucciano in mezzo a. Macchinare fare la miglia e mi dice sa signora e grazie mi sono distrattata mi ci riesce a pigliare il disco di più cazzo si arrovigliate a me ce l'hanno pigliato è positivo positivo no io ci ho pigliato una di chi che quella si chiamava tre selvatiche quindi è arrivata un venne di cosa e grazie, matura, ragazzo, vedi tutti i colori, ma matura ti dico, si posa sopra le piante della frutta in casa. E in caso di fare a terra e cercava la prova si è più avvolato, invece che ne fracca un bene che ha viaggiato, hai compreso? E la ci ho pigliata, proprio si è portata una gabbia che va via, ma si creava me peccava maledetta che si. E dopo ho detto, guarda, ammazzami la cosa, ma aspetta, cosa dura sì, grazie. Ma tutta che balla! La presa qua ti ci sono così, ma sono più buoni, ballo! Dire che non si calla, ma non li mollava manco da luce, cazzo! Io ci ho fatto queste giubbette, invece forse volevo un dita, non lo so! Ma tutta, mamma durami! Ti sono potuto dire che sono stato quasi un secchino di un secchino di buono e mi sono messa in sanata! Già lo so, già, no, ora freddamente veniva, già l'invidia passava le ma no, poi la sera tardi, prima stavamo parlando solo, vedi a certi stormi, già enormi, non li ha mai visti. Positivo, positivo, ma chissà, la cui ragione era in chi mi si apposava, era pieno di sanatri, ed era chi mi si era volata, compreso per il tempo, dopo un po' di tempo sono andato, non so come cosa, mi hanno affido, e la giudizia che vira in Chivi, e dopo c'è un'altra che è volata, era in Chivi e arriva in direzione di casa, se non me l'ha fatta più, si è mollata. Questo già ne prende, poi lui è vicino a me, non è distante. Lo so dire che questo qua, però questo qui a corte, invece lì noi si non invidia. E neanche quello che ho portato a controllarmi Antonello, quello lì non le prende tutto qua al sacco. Positivo, ma come c'è come lo vendio le piglia di corte, io la incamio io. È raro che prende corte questo, ma va bene questo, proprio alla grande questo. Non proprio corte niente. Invece lì noi si non li piglia a volte, quello gli 80 canali. Questo è 40 canali, lo zodiaco piglia a volte. Invece quell'altro che c'ho, il CPC, quello lì che è tutto farfatto, così non li piglia, è silenzioso, perché senti pulito e buco. Positivo, positivo. Aiuto a cacciare il microfono, ma non so cosa andare bene. Forse andrà meglio così. No, già va bene questo microfono, si sente anche l'eco. Va bene, la fare quando funziona un altro, intanto che ce lo fermo lì. Beh, se tu vedi quali funzionare, chi fissa l'hai a me. Tutti e due si mi sono andati in una mara perché non li tratto spesso. Qualche volta lo accendevo così, ci parlavo di niente per usare la stessa, però un periodo non li ho accesi per niente e si sono parati a un culo. L'altra addirittura era arrivato dentro la casa, che quando l'ho conservato funzionava bene, l'ho acceso e non usciva più. È positivo, quindi è un po' pulito di sintetica o grazia. La voce è bella pulita, proprio chiara, fa un altro passaggio. Vedi un po', qua c'è, allora il microfono lo posso aumentare, questo da tavola, così l'ho aumentato di più, però così mi sa che va meglio messo così. Non lo so, un microfono a tavola, è un altro apparato, questo è un microfono a tavola, sto operando. No, già sto scendo per cosa è della prestazione, MB4. Bravo, bravo, bravo, proprio intero microfono. Però è un preso intero l'apparato. Già sto scendo bene, anche se la sollevata poco fa per appena già era pulita lo stesso. Sì, pulita, e guarda mi conferma così. E così se va bene, se pulita così. È più forte sicuramente. Pulita è pulita, per rimane più forte, è un po' ribombante. Caparoglia, allora così va meglio, dai, facciamolo così. Così è chiara chiara, è perfetta proprio, pulita. E poi dice, no, fallo ecco pure lì con Marachino, però non tratto, io non mi piace però. Ma tu non bimbi, eh? No, io qua la camera ecco ce l'ho separata. Lì è tutta collegata, tutta all'interno. Bene, adesso c'è l'ecco e anche il bimbi. No, è tutto dentro, il Marachino ce l'ha dentro, è nato così questo. Mi pare, gira. Allora, gireni, e rinchiglia pureggio, pureggio, sul 4. È positivo, eh. E la settimana scorsa è cambiato il deposito, sono registrato, io appena ero rientrato dalla gomita e... ed era la scorsa, compreso. Questo qui in questo apparato il segnale numeri, Smithal non ne ha, e rimane un bel volto in cui si è appeso a conto Giulio, e un bel volto funziona. Aspetta, c'è un altro che ce lo Smith segna e guarda l'altro. Dove tanto le altre passare? Questo qui è il microfono l'altro di poco fa, il ZCM B più 4. Ma cosa hai chiamato? La radio, sempre la matessia. La radio uno va col mite o no? E lo segnale lì si confezione dall'arco di prima, No, la radio ho cambiato, questo è l'Iroid, però in questo qui c'ho il mic a mano, un Astral preamplificato. Con quell'altro non so gli altri settaggi da banco. Positivo, ma che ci vengono a fare l'altro? Questo ci vengono a segnare un mantello, diciamo, tutti i denti, l'ho preso. Ehi, questo qui è l'Inuit, quello che c'ho usato a canali, sotto e sopra. E questo che me la difendendo, questo me l'ho messo a posto io. E l'ho cazzata però. Se me lo tengo una cosa, molte volte se parlo sul 45, allora io vado sul 45, capito? No, è funzionato, se c'è un casino di anni questo, ce l'avevo conservato, mi disincarli sempre dentro la cassa panca, la brusa, non mi ha fatto l'uso di una che doveva attaccare. Bello, il tuo rispondi e lo gira a destra e fanno le cazze se non nei canali di gioco, isso è, e te c'è, se sei sopra lo zinco te c'è il numero 45, isso è. E arriva fino a 80, cioè il poverino qua no, lo sollevo, per esempio, sono sul 47, lo sollevo e vado, sono sul 7, lo sollevo e vado sul 47. Ha registrato il vecchio, se fai due scatti sotto, va due volte sotto, va quello, grazie. Questo qui va, la rivetta va di, per esempio, sono sul 7 va direttamente sul 47. Ma non c'è l'erretta o il pomello che gira? No, l'erretta, che c'è scritto normale, vuol dire sopra del scritto H. Dio, l'ho già compreso. Avanti il break, avanti, vieni, l'ho già compreso la riapra. Buonasera a tutti, Luigi e a De Graziano, Antonio Bombolo sono. Ciao Antonio, ben ascoltato pure a te. Papa, ciao Antonio, ben sentito, ma allora non eri tu sul 40, è tu? Io, ma manco per sogno. Allora non lo so chi era, mi sembrava la voce tua. Sul 40 poc'anzi, infatti ero sul 5 e poi quando sto parlando con Luigi, prima non lo sentivo, poi lo sentivo quando parlava Luigi, e mi sono passato sul 7, su questo canale non lo sento. No, negativo Graziano, no, io non ci vado, no, assolutamente, non ero io. Allora è qualche altro qui vicino. Lui è vero, se lo metta a te. Sì, ti vedo che senti voi lontano, adesso sei a questo cane, ma molto lontano parlare. Campa, è uno che ha la mania delle valvole, hai capito? Hai capito, Graziano? Cava, cava, è fatta di tipo, già di bigliaco, di zodiac, ma così forte non li bigliava mai di tipo, sarà, e allora sono sul 7, adesso c'ho l'inuiti che ti su colpi, non li biglia. No, non è che questo, non sento nessuno io, colpi non li biglia. Manco questo, non sento niente. Sta ragazza, figlia, lui si prende. Ma la cortesia, mi devi controllare, il Santiago, non mi interessa la radio, il Santiago di questa parata a questi tre matti, e poi mi dice Santiago del presidente, guardate il Santiago di questo qua. Non vuol dire che c'è lui. Di questo a vedere il Santiago del presidente. Qua siamo già a 9:15 passate. Perché infatti dice, ma ci sono tre fatti, qua ne sono altri 20 e dovrebbe esserci la differenza. Voglia, sei quasi 9:20, 9:15 passate proprio. E presidente, al tuo famoso che ha appeso. Ma si senta bene. Positivo, c'è anche il bip questo, l'eco, ecco, lo faccio sentire. Allora, adesso con l'eco, l'eco suo che c'era lui di origine, e tu c'è il bip, tutto inserito adesso. Già va bene. Va bene come apparecchio, dai. Il bip è quello un po' diverso da tutti gli altri. È positivo, positivo. Ecco, ma sono regolato perché c'è un coso per regolare la velocità, che si fa più veloce, più lento, più combatte. L'avevo un po' regolato un giorno, mi sembra che era Massimiliano qualcuno, l'avevo un po' regolato, c'è il crimine a regolare, capito? Scappa. Allora così va bene, guarda, stai usando il microfono da tavolo. È positivo il microfono da tavolo, Ma va benissimo, va, e poi... Per casa quello lì è l'ideale, dai. L'hai visto l'apparato come? E questo come lo senti in quelle coordinate? Ultimamente va benissimo. Bene, ti dico. Ma questo qua è il 550 della Intec. Va benissimo, Vitara, grazie. Roger. Ah, vanno bene questi apparecchi, sono qua per casa, va bene. Infatti l'ho preso, ce l'ho 2 mesi, ce l'ho già. E mi sono accorto che va la stragrande, va. E tu grazie a oggi non sei uscito? Stamattina sono passato da Antonello a fargli vedere quegli apparati, là. Li ho lasciato così me lo controlla lui quando c'ha tempo. Mi è piaciuto quel baracchino che c'ha Antonello, è bello. Chi non stai parlando? Se non me la ricordo la marca, comunque un bel apparato, Sotto blecco. Insomma, non le maneggi? Quello lì. Effettivamente l'avevo pure io, quello lì. L'ho venduto a quello a Pinocchietto, il secondo giorno. Era io pure io chi se lo cala, fatto un letto. Vabbè, si era venduto, è un bel apparato questo. C'ha tutto, c'ha la breva, è a corrente diretta quella, 220. Quello mio non me la metto di la corrente diretta o no? Forse hai ragione, quello mio è la corrente diretta, lo dai. Sì, sono un Galassi, lui. Ma corrente diretta? No, me la metto più, perché la corrente diretta è quello mio. Quello lì sono così, è tutto incorporato dentro lì, è male, che è male, però è un bel apparato. Perché certo non c'è messo ai piedi, alimentatore, rosmetro, tutte queste cose lì, ma è tutti lì, bebù. Positivo. Lo so. L'ho venduto pure bene io, è bene. Quanto l'ho pagato l'ho venduto? L'ho venduto Malte a me, Malte Salvucci, e poi l'avevo venduto. È bello come ha parlato, l'ho visto, ma è anche che non so chi è che c'era, che si era vendendo, ma non mi ha mento caida. L'aveva detto anche al baracchino una volta, solo qui ho lasciato perdere, è un bel apparato questo. Positivo, lo so, questo per esempio è molto più piccolo e c'ha più cose di quello lì, molto di più, questo sto parlando, adesso anche il presidente ne ha più di quello lì. Anche quello che ho portato io non è piccolo, però c'ha 2 bande laterali, quello che gli ho portato a controllarmelo. E quello lì, solo che a me, in allenamento, a me esce un bene, non mi piace andare così. E funziona che era un bombo, era un treno. Adesso quello lì era un internet, non me la metto più. Comunque di marca buona, il mic era della CTE, anche l'apparato. C'hai 40 canali normali, AM, FM, poi c'ha due bande laterali, un po' quello che giri, USB, ASB, B. C'è la vostra preconservato, cazzo, l'hanno attaccato, l'hanno arrivato in fusti lavare ed era nel negozio, ha detto boh, e allora sta controllando a Toledo. Positivo, positivo. E andare poi 10 minuti, andare, ma quando fare un apparatino tipo questo, vedi che c'è un po' di tutto, va bene, va più che bene, e poi prendere un barattino anche monogatto, questo è monogatto, e me le gatti. E anche questi che c'ho io qua sono omologati, e anche quello che c'è il mastro, infatti quando mi ho fatto la domanda, ce l'hanno costritti dentro, capito? Perché poi devi andare a fare la denuncia in questura, ma che tutti fuori adesso, non viene più bisogno di tutti, si babbiamo, però io ce li ho sempre. Caparrogero. Positivo. Come pare sia il fine della serata? Altro. Fraschetto sta scendendo. Scappa. Io sono qua in casa, quindi no. Non mi sento. La cuffia accesa. Grazie. Grazie, è bello quell'apparecchio. Anche il Galaxy. Però che è molto grande come apparecchio. Lo so che è grande, però ti elimini tutti gli scrivini che faccio, i loghi, l'alimentatore, l'uso dell'antenna, camera, ecco, gli hanno un poco di cose in attaccamento. Cazzo, fare un negozio. Diciamo che io sto usando più quello perché è più compatto, dai. Non devo togliermi il fastidio di mettermi la batteria, il microfono, eccetera, eccetera. Uso anche gli altri apparecchi, Però questo qua è quello che sto preferendo di più perché è più comodo per me. È più piccolo, anche, no? E mi scoccia meno. Quello che a me mi dà fastidio, perché quello là funziona bene, è un treno, però cazzo, è voluminoso, vada, figurati tu qua, c'ho una mensola di 22 centimetri e dice mi dice quasi la metà è a fuga, e mi dà fastidio, lo vengo male, ma non ha ragione. Già lo so, già. Cavala. Come ti arrivo lì in quelle coordinate? Cioè, qua c'è il meter digitale. No, qua c'è lo smitter con la lancetta, a una parte c'ho il segnale della radio e all'altro fianco c'è il segnale. Ma vedi mi sono bugiardi no, che vicino a me, cazzo come ti arrivi? Dico, tutto a fondo scala, vero? Allora Luigi, da tutti, ti continui così mi dire, buona la lancetta a giù. Quello che arrivo qua sono io, sì, mi pare che gli raggi intorno la lancetta. Questo non ero io, Sì, aspetta 5 minuti mi faccio un caffè, riprendi anche tu. Gabba. La radio. No, ho riconosciuto come hai parlato, c'è Alessandro. scappa del Roger. Beh, Maria del Paolo Giales, Maria va con lui a me ancora, che non battaglio di prima. Chi suonerà Enzo nell'altro passaggio? Tuo padre. Nell'altro passaggio sì. E scappa il Roger, non la voglio più sbagliata. Mi sembrava tuo padre nel primo posto, per Alessandro, già si capisce dalla voce. Si capisce dalla voce quando parla Alessandro. No, già era lui. Ma cosa? Questo sono io, hombre. Capito? Come ha telefonato con lui? Poco fa parlava lui a parlare. Hai capito? E quindi l'ha riconosciuto subito Luigi. Già c'ha ragione. Poi questa volta, ho sentito anche a te. Non so, perché io, guarda, si spegne un po' tutto e guarda, non so se mi ascolti bene così. Questo è come lo metto normale, capito? Quando aumenti ti sento più forte del radio. Ma chiara è la radio, guarda se rimane chiara, se si riesce a scandire bene le parole. O se cambia qualcosa, guarda, adesso lo spento. Era molto meglio prima. È meglio così, dici. Acceso è meglio. Strano, allora l'alimentatore riesce a portarlo avanti, perché ho cambiato l'alimentatore. È tutta una cosa bella, oh. Alessandro. Strano però che si abbassi così la luce, si abbassa molto la luce. È vero, è molto più forte, però cosa succede? Che quando c'è la portante muzza, portante bianca, c'è una ternata sotto, hai capito, quando sollevi? Sì, la cosa è fortissima, però ti metto come una ternata sotto, se siete sotto un rumore, capito? Sicuramente quello è l'alimentatore che non ce la fa alimentare. Cioè, vedi, perché sicuramente è piccolo questo alimentatore, e vabbè, non di che si di mio compare, già sono là di compare di mio, qui, Senti, se non parli, hai capito, ti sente sotto me lo sto parlando, però vuole fare appena di piano, se tu schiacci senza parlare si sente l'umore sotto, hai capito? Kappa, prova, vedi, qua. Adesso lo stacco. Adesso lo riattacco. Lo senti a tu adesso? Leggermente si sente, perché arriva nei limiti. Da quant'è? Qua mi arriva tutto alternato, si attacca. Così Luca, a me mi arriva così a me, non vorrei che... Io lo ascolto così quando attacca, si sente tutto ma forte, non leggero. Sì, qua lo cambia il segnale, è sempre lo stesso. Cambia solo che arriva con l'alternata sotto. E allora quello è l'alimentatore, l'avevo visto. Conviene tenerlo così, senza. Senza attaccato, sì, Santiago 9 da me. Se puoi immaginare, sì, Santiago 9. E mentre attaccato non c'è quant'è che sono, troppo. Aumenta di più. Comunque la radio cambia, quando è attaccato, è molto più forte. Per far di fatto che sicuramente ci vuole un alimentatore grosso per farla andare alla perfezione. Sì, aumenta di quasi di 10, dai, da 9, 10 passi, però la radio è molto più forte, se non ci sarebbe stato la ternata sotto sarebbe stato perfetto, solo che c'è questo rumore sotto, hai capito? Da 9 a 9, 20, da 9, 10 passi, con la radio molto più forte. Mi sarebbe, me l'abbia detto provarlo con un alimentatore di droghe, quelli non abbastanza, che ce la fa alimentarlo questo apparecchio. Ma va buona, va vedimmo. Luigi, guarda il mio segnale, guarda un po'. Allora, da 7 a 8, oscillante, radio perfettissima la tua, però attenzione, la radio è più forte, rimane più forte, come radio sei più forte, come segnale sei più debole. Allora, ascolta a me, sicuramente se non smetti il tuo, è stato male, quindi mi arrivano 9 appicchi positivi, se abbassiamo, quanti watt stiamo uscendo? Credo infatti che salgono anche a 10. Focatore, tu l'importante è bianca, se ne scende quasi a 7, ma come motore si avvicina a 9, 8, 3 metri, capito? Di picchi abbastanza positivi, tu, capito? I tuoi salgono come motori, come pare tu tengono a salire i picchi, capito? Sì, ho capito, ma il problema è che la famiglia si è andato male, secondo me, lui. Adesso sei 9, addirittura con 6-9 a picchi positivi. Sì, no, picchi positivi con 3 watt. Io sto usando quasi 15 watt. Siamo andati che arrivi sempre con 7. Quali siamo? Non ho un problema io qua, sicuramente. No, questi 3 watt, tu lascia perdere questi. Io, questi 3 watt è una cosa... superiore ai 15 watt minimo, questi 3 watt di questo apparato sono superiori ai 15 watt che c'hai tu, sicuramente sono superiori, capito? E a distanza come mi ascolti tu, con questi 3 watt ci vogliono un minimo 25 watt, 20 watt per ascoltare con un apparato per riuscire a ascoltare, capito? Perché se io te lo sollevo, vedi che sale. Sale, sì, è meno male, ma io sto usando adesso, vabbè, modulato così sono intorno ai 10, dai, 10, 11, però se fischio sono 15 watt. Adesso te ne mando 20 watt con l'altro apparato, te ne mando 20 con un altro apparato, guarda, questi sono 3 watt, 3 watt che però ci salgono, saltano quasi a 15. Di portate bianca sono 3, ma di muzza 12 salgono quasi a 15. Adesso ti faccio vedere l'altro con più questi pieni. Questo è modulato, chi è? Stavo provando, dai, sono qua. No, perché a pari parte, se vuoi, se ne avevo messo lo stesso, non è che... Se mi dai quasi 8. Io sto usando 15 watt circa, facciamo 12, là, proprio per essere precisi, no? Il segnale deve essere equivalente al tuo, il tuo è 9 positivo, pensa tu, 4008, 78, ma come stanno? D'accordo, tu sei, magari ha cambiato qualcosa, come la lancetta te l'ha fatta girare due volte. Qui sei solo 0, non è sta, quando attacchi mi ha rimesso la BDD quasi a fondo, dai. Allora ho cambiato parecchio adesso, ho messo un altro, capito? Ma c'è sempre molto ma si sente? Eppure distante adesso, non ho messo un po' lontani il così, trasformatore. Ma da quanto vuole l'alimentatore? Un po' lontanuccio, è strano che si sente. Ma quanti ampere ho l'alimentatore? E allora dovrebbe essere 5 ampere. Poi è basso, Guarda, tu senti, mi senti rumore a me, guarda. Come viene in terra, Se mi ho 12 ampere, picco massimo 15. Così mi hanno fatto, mi hanno spiegato. Non vuole dire una balla. Io ci vado in terra adesso. Se io lo metto sopra l'altro, lo posso mettere che non c'è spazio. Ma se lo metto nel camaraggio, mi sento proprio lo stesso rumore tuo. E il mio è un 12 ampere. No, un fischio tipo una ventola si sente. Cosa c'è? Una ventola quella cosa? No, il computer è quello, Questo è il computer. Ci ho portati di vicino, dai, accesso. E allora è quello lì, perché si sente molto. No, la baracchina non si sente nulla, non ho paura. Di qua, forse bisogna controllare un po' le cose. E le fate da cazzo di cane, no? Questo è il campare, si intende? Già. Se devi mettere un alimentatore almeno da 10 ampere e risolto tutti i problemi, dovrebbe spingere bene quella radio. Luca, via lui trova. Allora questo è il presidente, che sono 20 watt adesso, questo sto andando con 20 watt. Non lo so che segnale con 20 watt questo. 9 e 10. Più dell'altro? All'altro era 9 però, vedi? E questo sono 20 watt adesso, vedi? Dai, quasi 9 e 10, ora lì siamo, dai. È positivo, ma con 20 watt, capito? Questo l'ho portato a metto in vacio io. Arrivarci a 40 pure questo, però al massimo l'ho passato fino a 20 fa, non fa oltre 20 fa. No, se lo solito a 40, a parte il fatto ti va negativo, anche io forse lui lo metto anche, non so quanto sarà, 20-25 questo qua, ma inizia già a dare, non va bene, ecco. Non rischi di crepare il finale con un casino, poi lo lascio così come, anzi è anche troppo alto per me il mio panorama deve essere 8 watt, 10 watt. È positivo, positivo, ma questo va bene così, io l'ho fatto così, allora vediamo un po' i fatti, che poi non manco rivedo, cosa so qui. Questi sono i fatti, vero Luca? Sono questi qua i fatti? No, ma lasci più basso. Adesso le vedi, queste sono infatti, adesso aspettami. Così siamo a metà corsa. Guarda, quanti a metà corsa? 9 più 5, quasi, dai, poco ci manca. E cupa c'ha radio, no? È un po' cupa, sì. La mia, vero, cupa, eh. Anche quando tutta la mente è cupa. Non è cupa, è un po' la gira, dai. Ah, positivo, e può essere il microfono. Guarda se abbatto un po' il microfono, se l'abbatto un po' la di coso. Più che cupa. Insomma, un po' già migliorato, ma non più di tanto. Il microfono a tavola li sto mettendo, capito? Il microfono a tavola. Come il mio, ce ne metti più 4, così è. Positivo, quello lì è. Aspetta, ce ne metti più 4. Aspetta un attimo, aspetta. Allora. Aspetta un attimino. Comunque adesso ti come comprati, non è tanto è grosso. Almeno un 25 ampere, di quelli ci sono 50-60 euro costano. La più alcuno se vuoi, la tecnocomunicazione. Certo, lo switching 25 ampere a voi di attaccare, riuscire ad attaccare. Non è che puoi esagerare, ma comunque quando vedi attaccare tu a voi da vedere se fai i buchi. E a voglia, a dimmi maniera gana, a dimmi bassa, hai compreso cos'è? Se no la stavo prendendo l'altro giorno. Infatti anche io la so, ma per non mettere la 57 in tasca, lo ordino subito, telefono lo facciamo andare. Perché questo che ho io va bene, però quello è un'altra cupa. Non lo so, c'è anche l'attacco delle sigarette, del coso, non accendi i sigari, già la giovisco io a togo. Ma non è sì, perché adesso sei 9 più 30, hai capito? Sei passato da 9 a 9 più 30. Ho cambiato apparecchio adesso, ho messo un altro apparecchio, infatti non immaginavo che ti cambiavo di modulazione. Cazzo, avete sulla via, mi ha fatto di più basso prima. Ma un altro apparecchio questo. No, perché questo sai cos'è, Luca? È l'8001 l'apparato, hai capito che sto operando io. E non lo so, se attacco il 48, ma la 48 ti sbaglio, ma non mi vinti a te, hai capito? Però non è deciso lo Smith, se attacco il 48, le mani 40. Il 48 me lo sarei un po' di più le Santiago, non so, ma sono più meno affidabile, o neanche questo sarà tanto affidabile, però non lo so, questo me lo dà così il segnale, a te il tuo, capito? Con picchi positivi e abbastanza positivi, diciamo. Sì, no, non è che io voglio segnare alto. Immagina, i watt, se tu stai uscendo con 10 watt e io ti do un segnale 9 e io sto uscendo con 15 watt e mi danno un segnale 7, insomma, fatti i conti, dai. Poi ognuno cerca il segnale come vuole. Però mi sembra una cosa un po' sbagliata, ecco. Mi piace stare dicendo che stai uscendo con 3 watt. Quei modulati sono 5, sì, comunque il segnale era 9, 9 è positivo, tu mi davi 7 in positivo 8, è quello, forse magari un po' starato lo Smith, non lo so, comunque adesso arrivi qua, sulla B del DB, guarda il mio segnale com'è lì da te, guarda un po'. Stai dicendo, a me viene al fondo scala, proprio, non si muove nulla. Tutto a fondo va. Allora, tutto non si muove più, anzi, cerca di girare dalla frapace. Si è attenuato 9 più 5, non ci arriva nessuno così. massimo che arriva è 5 franco, 5 si è modulato. Ah, sono che ha fatto a te, cosa vuoi ti dica, per forza. Ma te la massa, sennò guai. Se solo avevo di altri 2-3 metri guai. Però voi ce l'ho io mi un tubo per pulizia a sollevarla. No, non mi fido. Se c'è un'antenna sottomarina fa un danno, cazzo mi arrestano. Ma questo qui ho io, è telescopico, quindi la puoi sollevare e abbassare canto di piatti. Tu dici da 3 salgono a 12 watt, e qua. Ciao. Sì, no, per i positivi 9,5 lui. No, questa non la riesce a portarla più su la questa antenna. Ma già è alta. Alta, sono 4 metri so. Ma non perché le staffe sono un po' così, dai, sono un po' arrugginite. Devo salire un po' e vedere un po' come stanno. Tanto è di là come si chiama? Lo spray, lo zingato. Ma io tanto mi ero assente la piazza da un poco di più, ma è svegliata. Se mi va la cazzo che ha fatto la cambiatura da nuovo, è la cambiatura che vuoi fare un no? La usai, ma la ricai. Aggiungi qualche staffa, ne pone anche 4 o 5 in più, cosa vuoi ti dica? Va. Non posso, no, anzi. Ho trovato il punto giusto, buono per mettere le staffe, se no neanche spazio di cera. Questa non vogliamo come le robe a caponesi. Però, io busco qua adesso, con la mia calma, quelle che si è state sparate, però gli pensavo qua adesso in antenna. Ragazzi, ma così dica Popolino. Ma non ha finita, ma sono fuori danno. Ho fatto danno, non ho risolto il danno, anzi, mi sono riparato il danno degli altri, per essere salita altra gente sul tetto. Ho rotto le tegole e la mia capico mentira lì. Le ho sostituite, ne ho altre addirittura di tegole, tre non sono ultime, adesso non trovo più quelle tegole, sono tegole salte. Magari, ma si trovano? Vabbè, comunque stavo riparando un tetto qua, ho detto, ma era un po' di tegole, mi prendi quelle, ma ti sei capita, magari c'è qualcuno, non tassavo, la sostituisco. Però lasciami fasciati, non io, ma mi lavoro da Claudio, e tocca a tenermi il palo, ma non se ne accorto, non ho mollato, pacca, qua ma tu la devo mille un pezzo, dico no, adesso, poi io c'è un vento, la madonna, mamma mia, dico no, ma vai, cazzo, io ero sul tetto, l'ho trovato la cozza a te, era una marcia di seta, sempre sul tetto, dai, la doppia avanti, cazzo, meno male, sono uscito a guardare, se no, diciamo, guarda, non so cosa sarebbe successo. Le prende cosa le prende? Come si chiama? Quelle che vendono i materiali di lizzi. Vabbè, ma se ne trovo qua più lette, così dicono, poi non lo so. Bisogna stare attenti, passare sul tetto. Si fa un bel lavoretto, vabbè, diciamo che c'è i tiranti anche la lì, già la può salvare un po'. Quelli voglio dire molto, molto, molto. Lavorano quando c'è il vento. Questa è la buccia, 2 anni fa mi pare. E quasi 2 anni fa. C'è questo vento, ma vento forte. Mi ricordo qui sotto, no? Qui davanti a... Mi davi... Beh, non è parata, non è scesa. E poi non è che si è attaccata alla perfezione. È stata così. Non ho messo le staffe, perché ho chiesto a un amico, sicuramente come anche dei favori, no? Sì. Cioè io li faccio, non ne frega niente. No, non chiedo io, farò pure gli altri. Ci vuole imbagati, capito? Gaffa. Non so se l'hai saputo lui, è una persona che conosci tu molto bene anche. Te lo ricordi quando ha fatto quel suono potente, eccetera, eccetera? L'ha preso in pieno l'antenna, gliel'ha fatta scoppiare. E ha fatto un bel di danno. Ma cosa ne conosco io? Ma le rivate? Aspetta un attimino. Una persona qua in zona, dai. Aspetta un attimo che devo... Mi hanno chiamato. Sì, ok. va bene, comunque lui, dai, non è successo niente, comunque sia, a parità di watt siamo lì, dai, più o meno segnale, se non può assomigliare, no, di meno. Ma sarà appena installato lo smitter, ma poca roba, dai. Mettila nel mio affetto che c'ho la pista per i miei cutteri. Cosa grazie? Io c'ho la pista d'atterraggio dell'elicottero sul tetto. Che beva tu la piscina? Vuol dire il tuo tetto è in piano, là, diciamo. Il mio è un po'... tende a scendere, là, c'è una parte dall'altra. Il mio è tutto in piano, atterrato, c'è tutto il parapetto. E che non mangiate il permesso, se no mi chiediamo l'attico con la veranda tutto il legno, ma non duri. Grazie a tu, non mi stai ascoltando di bene. Bene, la forza è chiasso. La radio va bene, sì. Non vuoi stare, senti, a me a parte la ventola del computer, vai. A te. Ma si sente. E la meno si sente, no? Senti. No, segnale com'è da te, tu sei 9:20 qua, vai. 9:20 passato, e picchia sempre in alto. Poco fa Luigi mi ha girato anche lo smitter. Vabbè, Luigi, Luigi, io la facciamo un po' più avanti qua. La picchia 10:20, 12:20, dai. Andare, cappa. altrimenti c'è un bello. E cosa vuoi? Mi dico pure che ti sta a fare, perché sono pesanti, non si come te. A coso, canale 1, al cantante, al mano, mi hai detto che sto fatto perché sono pesanti, mi sono caffè una busetta, che ti sono messo in vittore, non ti sono da nessuno. Già, e la sei canaria, preso, no? Ma poi mi ha distratto, anche se si che è tirato di questo riportante, e cosa vuoi che mai? Tirando la carriola. Vabbè, che importante si era sempre fatto, Antonio Cuomo, la stessa parte. Io anche buonasera, anche io compono, bene, sto per entrare, sto qui, sto per entrare. Insieme a Mario, insieme a Mario, insieme a Cittadi, insieme a Cittadi. Da poco, e allora invece a venire un po' qua, agitarci un po' il sonno, a di lui, lui ciappla ciappla, ciappla ciappla, e insieme a capà, vai Mario. Oh, carissimo Antonio, buonasera, ben sentito. Fa sempre piacere a sentire qualche persona. Ok, beh, tutto bene con voi. Ciao, tutto bene, tutto bene. Sempre qua, oggi non sono uscito anche una parte, sono sempre qua a casa. Tutta la sera attaccato a questo baracco, dai. Gli altri sacchi anche tu piano piano gli altri sacchi, naturalmente per stare a giro per il tempo che sta facendo, e meno male che stasera si è messo bene, ho visto che proprio si è venuto a tempo alle 5, dopo il telegiornale, ha segnato bene tre, un paio di giorni, per 3 giorni, però sta arrivando una perturbazione di freddo, freddo vivo. Ah no, da 7 gradi ieri a Miuggi, ah no, a Mascia non manco un mezzo poco ancora, Gio Mario. Sì, ah sì, ah sì, ah sì, vuol dire che per poco un cappotto tra i due gatti, una macchia di un gatto. Sì, un cappotto, poneti la sciarpa, poneti, un cappotto è troppo pesante. Ah no, e tu, a tu, l'albero facendo lo senti. Dobbiamo farlo ancora, non ho avuto tempo, ma già l'ho fatto questi giorni, dai. Ancora non abbiamo fatto niente. Oh, io l'ho fatto, vedi, stamattina mio figlio è venuto, allora, siamo stati fino a mezzogiorno e mezzo, non a meno 20, rialzando bene, è uscito proprio una cannonata, Dio Mario. Da Maria? Ma è la padrina, lui ancora noi. Io per la signorina, io che fa la uia, e chitarra io. Noi non la computare per cui a Benedita che gioca lei a darsi dei che gli ho messo appoggio per aiutare, per aiutare. Però non l'abbiamo fatta, Ok. Voi Antonio, Antonio gioca Luca, dici che ti stai dire attaccata al baracco, qui sei giovano, voi alle 3:02 era presente sotto il brisca frasca con Mario, di Pino Mario. Beh, logico, ogni cosa viene passa, e vi seguo lui in frequenza al doppio di anni, dell'anno che fa Antonio, Tanto quanto ne hai? Di 5, sì, immaginate già che noi abbiamo cominciato, io ho cominciato quando una via 33 anni, capito? E tu eri appena nato, si incanna via. Giovanissimo, per cui, meglio che se la cola, meglio che no, stesso che no, dai, libero, si che a pulisci bene anche io, si libera ancora. Ma ancora sono libero, ancora no, non nati un femmina. Mio, sai, oggi che oggi, una giornata un po' così, questa vetola, magari dopo se si esce, da. Però adesso me ne sto un po' a casa. Allora metto la canduccia, visto che sono tutta la settimana che lavoro, poi faccio un lavoro pesante, e quindi ho detto, adesso me ne sto un po' a casa, almeno mi riposo, domani sono pronto. Fai bene, ti riposi, e domani sei bello fresco, perché... Voi bene. Avanti Marie, Cristina. Mi si fa che la vecchia che anche Mario. Esatto, aggiunga qui a zero, qui alla casa dei buffi. Io Marie, guarda, ce l'ho, fai il centro. E avanti, che mettete, più basso. E avanti, sei curato a sotto Mario, è andata appena appena. Pure qua mi arrivano queste due forti. Anche tu arrivi forte, non siamo mica tanto lontano. E avanti, vediamo. Quasi a zero, si è passato il doppio a chi, io mi faccio dei timpani, dammi a me avanti, dammi a me avanti. E prima cosa mi avete detto, ma che c'è, i segnali sono abbastanza buoni, dati che ti vuoi. È logico, come il tuo microfono non è vero, corso, è una levetta, caro sai, anche se perché di volumi grandi, una levetta e non bisogna tirare nemmeno, ah no, rubometto.